figura di merda, perché vieni Mary, dai, adesso facciamo un gioco, cosa, si è messo dietro così, guarda, no? Che ti sta registrando, eh. E fa: adesso bambini state attenti, guardate io cosa faccio la maestra Mary. Ha fatto così e ha tirato fuori un paio di mutande. E l'ha capita anche a loro. Sì. No dai, non ha un cucciolo, no.